and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oggi all'asilo emergenza dermatite. Si grattano tutti, anzi si grattano solo le bambine, Tutte le bambine. La dermatite erano solo loro, Solo le bambine? Sì, Kappa, solo le bambine, perché solo le bambine si truccano, no? È il trucco, il make-up che causa questo problema. Ma siamo all'asilo, possibile che si trucchino anche le bambine dell'asilo? Ma ormai è così, ormai le bambine si truccano e usano gli stessi prodotti che usano le loro mamme, solo che la loro pelle non sopporta certe schifezze e scoppiano le dermatiti da contatto, si chiamano così. Lo dice l'Accademia Europea per l'Allergia e l'Immunologia Clinica e dice che è un problema del tutto nuovo, prima non esisteva, quindi è vero che il mondo si infantilizza, ma è anche vero che i bambini si sentono autorizzati a comportarsi come gli adulti, tanto è uguale. È tutta colpa delle star bambine, Drago, che sono sempre truccate al cinema, in TV, sui giornali, e quindi le bambine che le guardano vogliono essere come loro, non possono non truccarsi e risultare insulse, bambocce, ma insulse? Senza stile, senza classe. Ma non diamo messaggi diseducativi. No, ma io interpretavo. Cioè, non essere come queste star non significa essere delle, come hai detto, insulse, bambocce. Speriamo che le bambine dell'asilo capiscano e che si lasciano convincere. Sentiamone una, no? Sei sempre lì che vuoi fare le interviste. Bambina, allora, cosa puoi dirci sul problema del make-up? Quindi, palmo della mano, ci spruzzo sopra il mio fondotinta, lo prendo con il pennello e lo stendo sul viso. Musica e bambini, binomio perfetto. Sì, lo si vede anche dal successo di gruppi come i Jonas Brothers. Vabbè, come... ma quelli sono mica bambini, Drago. Beh, non sono nemmeno adulti. Senti, Kevin Jonas ha 23 anni. Alla sua età Robert Plant aveva già fatto 4 dischi con le Zeppelin. Scusa, che bambino è? Ma Nick Jonas, invece, il più giovane, ha appena 18 anni. Ma dai, forse anche 19. No, 18. Possiamo ancora considerarli un gruppo di teenager, dai. Le loro canzoni piacciono ai ragazzini, i temi che trattano sono temi da ragazzini. Sì, tipo? Tipo la lotta al diabete. La lotta al diabete per ragazzini, lotta al diabete. Vabbè, ma sei impazzito, così, ti giuro. Ma è una malattia per vecchi, Drago. Ecco, posso capire che, non so, magari Joe Cocker, Bob Dylan hanno perso i 70. Ma loro no, sono diabete. Rock, non possono. I Jonas Brothers cosa c'entrano? Cosa c'entra? Nick, il più giovane, soffre di diabete tipo 1 e quindi è interessato in prima persona. Ha anche partecipato alla giornata mondiale per la lotta al diabete. Senti qua. Diabetes is something I live with, but I don't let it slow me down. I hope you all do the same and show the world that people with diabetes are strong and can make a difference. Vabbè, together però, we can achieve small everyday victories. Il diabete colpisce chiunque. Però devono stare attenti, perché con la musica sdolcinata che fanno, magari Nick, se lì in mezzo a una ballad gli viene un coccolone. Sai che non ci avevo pensato. Questo. Devono cambiare genere i Jonas Brothers. Speriamo che il medico gliel'abbia detto, Nick. Il medico? Basta che non sia lo stesso di Michael Jackson. L'asilo universale colpisce anche il compassatissimo Regno Unito. David Cameron, il primo ministro dimezzato della storia recente del Regno. Ma come dimezzato? Cos'è, Calvino? Ma no, Lib Dem, sai che sono in coabitazione con i Lib Dem adesso, i Tori. Ebbene, lui aderisce alla campagna di infantilizzazione mondiale generale con la sua nuova superideona. E cioè? Misurare la felicità dei sudditi di Sua Maestà Elisabetta II. Vabbè, ma insomma è quello che deve fare, primo ministro. Sì, ma lui dice, se la gente sta bene o meno, non lo decide il prodotto interno lordo, capito? No. Lo dice Cameron Diaz. Lo dice David Cameron. Ma cosa stai dicendo? Ma no, perché sembrava di più la dichiarazione di Cameron Diaz. Vabbè, dai, allora, capito, il PIL non misura il vero benessere. Specie in Inghilterra, dove per PIL di solito si intende il gruppo di Johnny Rotten dopo che ha sciolto i Sex Pistols. Public Image Limited. Vabbè, lui vuole misurare la felicità. E di che cosa ha bisogno David Cameron per misurare la felicità degli inglesi? Domande personali. Come stai? Come ti senti davvero? Cose così. Sei fiduciosa? Sì. C'è qualcosa che non va? Ma no. Ti ho già visto da qualche parte. Ma no, questa non ma è vieni domanda. Qui spesso? Queste cose qui? Sì, può darsi. Però anche bisogno di risposte, risposte personali. Credo che non sarà facile fare questa inchiesta. Vabbè, Cameron sembra dire la felicità è relativa. Cioè, se un barbone che vive coperto di giornali in fondo è felice, Cameron potrà sempre dire, vedete che il PIL non è tutto? E se un ricco sfondato è sfondato anche di depressione, Cameron potrà sempre dire, vedete che il PIL non è tutto? E ora, bambini, ricreazione. Ah, Drago, la ricreazione di metà settimana sì, è un attento, po' come però, quando cammini in montagna, no? E poi arrivi in cima al passo e poi... Ah, è tutto disceso! Ma smettila! Drago, fermami, ma dai, ma smettila! Scendi da quello scivolo, ma perché? È bellissimo lo scivolo, dai! Concentrati, devi concentrarti sui nostri, sui tuoi, sui miei, sui nostri doveri, news and talk. I doveri news and talk, sì. Che lingua è? Vabbè, una specie di così, news and talk si usa dappertutto. E quindi avviciniamoci al bambino alberghetto carino, che è lì che ci sta aspettando. Il bambino alberghetto carino. Ciao bambino alberghetto carino. Vabbè, cos'è sta storia dell'alberghetto carino? Ma no, dai, niente, un modo di dire. Abbiamo prenotato in un alberghetto carino. No, cioè, no, si dice... molto carino. Non è solo carino, devi dire molto carino. Sì, sì, è proprio come dicono i miei genitori. Ah, sì? I comunisti. Va bene, allora. Molto carino. Ah, sì, allora, alberghetto molto carino. Oggi qual è la tua lamentela? Nessuna. Oggi tutto ok. Ah. Perfetto, quindi qui all'asilo fila tutto liscio. No, un attimo, non esageriamo. Però devo dire che crescendo sto imparando a prendere un po' la vita così, con filosofia. Come viene, viene, insomma. Però capo, è vero, non è che noi ci dimentichiamo spesso che il bambino Alberto cresce di giorno in giorno. Beh, certo, è un bambino, è una spugna che assorbe tutto quello che viene detto. Giusto, giusto. Ah no, basta con questa storia della spugna. Ma perché? Perché è spugna. Lo dicono tutti che sono una spugna. Ma si dice così dei bambini piccoli come te, che ricettivi. Perché ricettivi, bravo. Ho capito, ma a me la spugna fa schifo. Ma perché? Ma dai, ma puzza. Ma cosa? Ma l'hai mai usato una spugna? Vabbè, no, mica si annusano le spugne. Allora, prima prova e poi mi dici, no? Vabbè, ma tu non devi pensare alla spugnetta, quella che usa la mamma per pulire il bagno. Devi pensare a una spugna figurata. Ma sì, una spugna nel senso di... Com'è che possiamo spiegarglielo? Ma che lascia stare? Ma cos'è la spugna figurata? Ma è troppo spugna... piccolo, Beh, dai. Certo, sì, però essendo piccolo è anche una spugna, quindi assorbe quello che gli stiamo dicendo. Basta, no? Basta con questa storia della spugna, eh? Allora, adesso vi racconto una storia su mio nonno, così almeno capite. Ma tuo nonno quello malato? No, non quello parcheggiato all'ospizio con la cannetta in gola. L'altro nonno. Ho capito, no? L'altro nonno, caso strano, lo chiamavano tutti spugna. Come soprannome? Ma no, non lo so, dicevano il nonno è una spugna, come voi lo dite a me, ho capito, E non era un bambino, era vecchio, certo che era vecchissimo, era un nonno, quindi a forza di chiamarlo spugna, il povero nonno, il nonno spugna, è morto. È morto. Oh, ma mi spiace. E di cosa è morto? È morto di cirrosi epatica, Ah, vabbè, ma allora era un altro tipo di spugna. Sempre figurata? Bravo, vedi, sì, vedi che ha capito. Vabbè, ma certo, è una spugna. E ora, bambini, tutti a casa. Che noia, che barba, ma che cos'è? Noia, che barba. Sembri Sandra Mondaini. Vabbè, per pace forza, all'anima sua. Per forza, siamo ore e ore ad aspettare che qualche anima buona si decida a fermarsi per farci passare. Sei esagerato, sai benissimo Mondaini, che prima o poi si fermano, dai. Ma che palle però. E poi io mi sento abbandonato. Ecco, la sindrome dell'abbandono. Qui fuori all'asilo, gli unici qui. Tutti i bambini hanno qualcuno che li viene a prendere e noi due no. Abbiamo una certa età, Drago, abbiamo anche la macchina. Sì, però è parcheggiata al di là della strada, quindi come non averla? Che noia, che barba, che noia. Sì, che barba. Vabbè. Tra poco tutta la gente che esce dagli uffici sarà passata, quindi potremmo passare anche noi. Sì, però stai magari calmo. Verso le 11 di sera, è vero. Alle 22.45 in tempo per la replica. Sai che consolazione. Ma non ti va mai bene niente, madonna che lamentoso che sei. Vabbè, non ci fanno passare, dovrei essere contento. Ma vedrai che manca poco. Ma quanto? Poco. Ma poco quanto? Non lo so, non lo so. Vedi che non lo sai, non lo so. Intanto il tempo passa, che noia, che barba, che barba, che noia. E io così quasi mi mangio il panino che ho rubato in mensa, che qui sennò... Ma come il panino? Buono, un po'. Bene, ci rassegniamo a cenare qui, Ma quindi no, mi dai ragione. È solo un panino, passiamo il tempo. Sì, sì, no? Si comincia così, poi ci si rassegna a dormire qua, sul ciglio della strada. Vabbè, non so tu, ma io il pigiama nella borsa ce l'ho. Anche lo spazzolino, dentifricio. Non si sa mai, domani. E mandate i vostri spazzolini da denti a chiedoasilo@radio24.it. Io ce l'ho.